Sono stato invitato a predicare in occasione dell'80° anno di nascita di un fratello in fede. Subito la mia mente è andata al Salmo 90, che troviamo nella parola di Dio, dove viene fatto riferimento proprio a questa età. Leggiamo il brano che ci interessa. Il salmista che si sta rivolgendo a Dio in preghiera: tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, e per i più forti a 80. Ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Salmo 90, 8-12. Molti uomini prima del diluvio hanno vissuto centinaia di anni. Lo stesso Mosè visse 120 anni, eppure riconobbe che normalmente l'uomo arriva in media a 70 anni e, per i più forti, a 80. Arrivare dunque a compiere 80 anni è un traguardo che pochi riescono a raggiungere. Ciò che mette in evidenza Mosè è che la vita per tutti è un travaglio e vanità e, come se ciò non bastasse, Mosè considera che la vita passa velocemente. La considerazione di Mosè è molto realistica. Quando si è giovani, si vorrebbe arrivare subito all'età matura. Quando si è maturi, si inizia a desiderare di essere giovani. Ma solo quando si è raggiunto una certa età ci si rende conto che il tempo è veramente volato. E questo perché ciò che è terreno è sempre breve. La vita è tutto un travaglio. Si nasce piangendo e facendo soffrire, si vive o meglio si convive con le afflizioni e spesso si muore con del dolore e recando dolore. L'esistenza umana è un combattimento continuo contro le malattie, contro le disgrazie, contro l'indigenza, la povertà, la fame, la paura e soprattutto la morte. Ma alla fine chi vince è sempre la morte, poiché è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Ebrei 9:27. Questo non è un quadro di un pessimista, ma di un ottimista che guarda in faccia alla realtà, che considera la vita per quello che è, e cioè che tutto è travaglio e vanità. Il libro dell'Ecclesiaste riassume il tutto in una semplice proposizione. Tutti i suoi giorni non sono che dolori e il suo lavoro penoso. Il suo cuore non riposa neppure di notte. Anche questo è vanità. Ecclesiaste 2:23. Nonostante questo quadro apparentemente pessimistico, la vita però è disseminata ovunque anche di gioie. Vi è la gioia della nascita di un bambino, di riuscire nella vita come a scuola e nel lavoro. Vi sono le gioie della famiglia, del matrimonio, le soddisfazioni che danno i 5 sensi: vista, udito, tatto, odorato, gusto. La vita è anche bella. Nonostante gli aspetti negativi, essa rimane comunque un dono di Dio. Però tutto questo la parola di Dio lo chiama vanità, perché le gioie ed i dolori sono temporanei, relativi, tutto è destinato a finire. Questa non è una novità, eppure nel profondo del cuore dell'uomo ci è uno strano atteggiamento verso la vita. Egli si comporta come se non dovesse morire mai. Il Salmo 49 esprime molto bene questa realtà. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è troppo caro e il suo costo non basterebbe mai per far sì che egli viva per sempre e non veda la fossa. Infatti tutti vedono che i savi muoiono e che nello stesso modo periscono gli stolti e gli insensati, e lasciano ad altri i loro beni. Internamente essi pensano che le loro case dureranno per sempre, le loro abitazioni siano eterne, e così danno i loro nomi alle terre. Eppure anche elle. Uomo che vive nelle ricchezze non dura. Egli è simile alle bestie che periscono. Salmo 49, 7-12. Questo quadro della società è orribilmente attuale. Vi sono persone che spendono la propria vita per costruirsi case o grattacieli e possedere terre come se le potessero possedere per sempre. Ma L'esperienza insegna che, dopo poche generazioni, o addirittura la generazione seguente, perdono tutto ciò a cui avevano messo mano. La loro fatica e il loro travaglio è servito solo per essere impegnati nella vita ed essere distratti dalle cose che hanno un valore eterno, mentre il vero valore è proiettato nel futuro, dopo la morte. Vivere 70 o 80 anni è un dono di Dio se chi vive ha risolto il problema del suo rapporto con il suo creatore, e cioè i suoi peccati. Mosè scrisse: «Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti e alla luce del tuo volto». Dio conosce tutte le nostre colpe, anche le più segrete. Ciò che rende vana questa vita è la mancanza di un vero rapporto con il Creatore, è il non aver realizzato il perdono dei propri peccati. Alcune persone arrivano a 80 anni, ma se nella loro esistenza non si è verificato un giorno in cui hanno realizzato il perdono di Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cosa sono serviti loro gli anni che hanno vissuto? Se gli uomini potessero vivere anche 1000 anni, ma per morire alla fine nei loro peccati, cosa sarebbe servita loro una vita così lunga? Ecco perché la nostra attenzione deve essere rivolta non tanto agli anni a cui si arriva a vivere, ma al Salvatore delle nostre anime. Ciò che rende bella e valida questa vita è Gesù Cristo. Mosè, rivolgendosi a Dio, si chiese: «Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto?» Contrariamente a quanto viene insegnato, per natura l'uomo è sotto l'ira di Dio. Questa situazione non è dovuta tanto a quello che fa una creatura, ma alla sua nascita. L'uomo nasce come creatura di Dio e come tale è incamminata verso la perdizione. Testimoniavo ad una persona della mia fede e, dopo avermi ascoltato, esclamò: «Vuoi proprio dire che Dio sia così cattivo da mandarmi all'inferno?» «Non è Dio che ti manda all'inferno», gli risposi, «ma sei tu che ci stai andando. Lui ti vuole evitare questa sorte e per questo ti invita a credere in Cristo quale tuo personale Salvatore e Signore, perché la salvezza è solo in Cristo Gesù. È un inganno mortale quello di credere che un po' di acqua del battesimo sparso sul capo di un neonato o anche di un adulto faccia diventare figli di Dio. Solo mediante un atto di fede in Gesù si può diventare figlio di Dio e realizzare la nuova nascita. La nuova nascita è assolutamente essenziale. Non si compra, non si eredita e nel mondo non che è nulla che possa sostituirla. Tutti devono nascere di nuovo, non solo gli sventurati, ma anche le persone rispettabili. Nascere di nuovo non consiste in un atto fisico, ma in un'esperienza spirituale. La prima nascita ci fa diventare membro di una razza perduta, la seconda membro di una razza redenta. La prima nascita ci conferisce una natura corrotta e peccaminosa, perché siamo stati formati nel peccato e concepiti nell'iniquità. La nuova nascita ci dona una nuova vita rendendoci partecipi della natura divina. Sulla base della prima si nasce peccatori perduti, in virtù della seconda si rinasce santi e salvati. Le due nascite sono ben separate e distinte. È la linea divisoria fra paradiso e inferno. E, per questo che Mosè prega, insegnaci dunque a contare i nostri giorni, per ottenere un cuore savio. Contare i nostri giorni significa vedere il presente in relazione al futuro, valorizzare l'oggi in vista dell'eternità. Ma questo è Dio che ce lo deve insegnare, perché la nostra natura è propensa a pensare solo all'oggi. Ma come disse qualcuno, chi pensa solo all'oggi è saggio per una vita, ma stolto per l'eternità. Quando Dio ha assunto un corpo per farsi riconoscere dagli uomini, non è venuto per fare una passeggiata, ma per dare il meglio di se stesso, per donare tutto ciò che aveva, la sua vita. La morte di Gesù sulla croce rivela l'amore e l'odio di Dio. L'amore perché ha donato se stesso, l'odio perché non chiude un occhio sul peccato esigendo che venga giudicato e condannato. Chi crede in Gesù Cristo non è giudicato, chi non crede è già giudicato. Ora, se Dio non ha risparmiato suo figlio quando è stato trovato colpevole, come possiamo noi pensare che risparmi la creatura che è colpevole davanti a lui? ma grazie siano rese a Dio perché alcuni arrivano a 80 anni con i peccati perdonati e avendo vissuto come cristiani. Un cristiano non è solo chi ha solo creduto in Cristo, ma è colui che sa contare i propri giorni, colui che vive il presente in vista del futuro. Il cristiano è colui che non aspetta la morte, ma attende con ansia i premi che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Il cristiano è colui che vive per Dio in Cristo, che ha lo scopo di glorificare Dio sia nella vita che nella morte. Il cristiano non attende una lunga vita, ma desidera fortemente di adempiere lo scopo per cui è sulla terra. Gesù Cristo è morto a 33 anni, ma aveva vissuto pienamente e adempiuto la sua missione. Jonathan Edwards, un uomo che dedicò la sua vita a predicare l'Evangelo, pregò: «Signore, imprimi l'eternità nei miei occhi, e l'eternità che mostra quello che è reale e quello che non lo è. È vero che la vita è piena di affanni, ma per un cristiano questi sono ritenuti un nulla per la meta che ha davanti. Lo scalatore disprezza la fatica pur di arrivare in cima. Lo sportivo ritiene cosa di poco conto la disciplina alla quale si sottomette pur di vincere il premio. Così è del cristiano. Egli apprezza le gioie di questa vita ma disprezza le difficoltà pur di compiere il mandato e afferrare il premio promessogli. Come disse Whitefield, è meglio stancarsi che arrugginire, o, come è stato detto diversamente, meglio sbagliare che sbadigliare. Spesso siamo più preoccupati per la quantità di vita e dei nostri successi che della sua qualità. Noi vogliamo essere forti, sani, attivi, vogliamo vivere le nostre vite pienamente, ma possiamo vivere 100 anni e avere un'esistenza vuota. Possiamo sprecare un intero secolo per degli obiettivi vani ed inutili. Come un diamante vale più di 1000 pietre comuni, così vivere con Dio, e per Dio anche brevemente, è la vera vita, ed è ciò che valorizza un'esistenza di 80 anni. Settembre 2005. Ellero,